Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia con voi di nuovo Sebastiano Barisoni. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente parleremo soprattutto dei temi economici toccati dal Presidente del Consiglio Letta sia nel suo intervento questa mattina alle 9, poco dopo le 9, che nella replica. Lo scontro con il Movimento 5 Stelle, anche e soprattutto sul tema delle manifestazioni che vanno sotto il nome di Forconi, anche se non è solo il popolo dei Forconi. Di questo parleremo in apertura, perché di nuovo ci sono stati vari disagi oggi in Italia, ma non è praticamente il terzo giorno di proteste, che ripeto non ha solo il movimento dei Forconi dentro, ma anche altri movimenti a Milano, Tafferugli, ma lì ci sono mischiati anche i tifosi dell'Ajax. E ieri però la denuncia di molti negozianti, soprattutto a Torino, che hanno detto di essere stati minacciati e costretti ad abbassare le saracinesche. E poi anche le parole molto dure del ministro Alfano, che ha detto: attenzione, ci risulta che in alcuni casi vi possa essere il rischio di infiltrazioni di carattere della criminalità organizzata. Ancora, per quello che riguarda i temi di questa giornata economico-finanziaria, nella seconda ora parleremo invece più specificatamente di quello che ha detto Letta sul debito, ma anche sul cuneo fiscale e su quelle che saranno le prossime privatizzazioni, su quello che il governo intende incassare dalle prossime privatizzazioni. Parleremo anche, dopo i mercati, della Volcker Rule, ossia noi non dimentichiamo che cosa ha originato questa crisi nel 2008, cioè un atteggiamento quasi criminale della finanza in primo luogo americana e anglosassone, con un'assunzione di rischi impropri da parte del mondo bancario e con una non distinzione tra la banca che raccoglieva i soldi dei risparmiatori e la banca invece che faceva investimenti anche molto rischiosi. Fu l'inizio di tutto, molti lo datano con la fine del Glass-Steagall Act, e cioè il fatto che già dai tempi dopo la crisi del 29 in America e anche in tutti gli altri paesi occidentali fosse passata una legge che separava nettamente la banca quando fa attività di raccolta del risparmio e quindi deve investire in maniera prudente dalla banca che fa la banca d'affari, la banca speculativa in senso stretto. Quella separazione fu eliminata in maniera improvvida, per non dire quasi criminale, a suo tempo. Devo dire che era presidente, capo degli Stati Uniti era Bill Clinton, e adesso da più parti si è negli ultimi anni invocato una nuova legge che separi l'attività o che renda più stringente l'assunzione di rischi da parte di una banca, quanti rischi una banca può assumere. Ieri è arrivato l'ultimo via libera alla Volcker Rule. Volcker è l'ex presidente della Federal Reserve, e avranno tempo le banche fino al 21 luglio 2015 per adeguarsi. Ne parleremo più avanti, come sempre anche la borsa. Borsa che oggi vede Milano perdere nettamente più delle altre borse europee, meno 1,30% l'indice, con Parigi che guadagna lo 0,14%, Francoforte perde lo 0,20%, Londra lo 0,11%, l'America perde lo 0,32% sul Dow Jones. Perché questo? C'è un titolo che perde tantissimo in questo momento, che è Mediolanum, meno 6,80%, e ne parleremo. E poi anche molto male Pirelli, molto male, forse eccessivo male, meno 3,30%, Telecom Italia meno 3,20%. Cosa è successo su Mediolanum? Ripeto, lo commenteremo. C'è stato un collocamento di azioni da parte di Fininvest, che ha una quota rilevante di Mediolanum. Ancora, devo dire che pure Eni pesa, meno 2,12%, ci sono stime al ribasso per Eni, ma non va molto meglio A2A, che perde l'1,60%. Di positivo, Salvatore Ferragamo più 0,40%, cito anche Diasorin che perde il 2,60%, però qui pesa anche il fatto che usciranno il prossimo 23 dicembre dall'indice dei titoli a maggiore capitalizzazione dal FTSE MIB. 349-238-6666 per i vostri SMS, la pagina di Focus Economia su Facebook. Grazie per chi mi fa gli auguri di buon compleanno, ma non mi sembra una gran notizia. Le altre notizie in breve. Allora, per quello che riguarda, mi chiedete di oro e petrolio, è vero, è un po' che non diamo l'aggiornamento, comunque sono sempre poco mossi. Il petrolio è sotto i $100 al barile, a $98 al barile, l'oro è a $1,259 l'once, sempre sui $1,200 l'once, quindi anche qui poco mossi. Ancora dall'America, oggi veniamo a sapere che il gruppo bancario americano JP Morgan Chase ha fatto richiesta per depositare un brevetto per un sistema di pagamento computerizzato che richiama molto quello utilizzato per il Bitcoin, la moneta virtuale che molte polemiche ha suscitato. E la piattaforma proposta da JP Morgan Chase permetterebbe alle persone di effettuare pagamenti elettronici su internet senza dover rivelare il loro nome, il numero di account o pagare una commissione. Le paghe orarie degli amministratori delegati americani di alcune aziende americane sono in media 874 volte più alte di quelle dei lavoratori. Lo ha rivelato una ricerca che ha preso però le 10 società con maggior divario. Sapete qual è la società dove il divario è più forte tra la paga dell'amministratore delegato e quella del lavoratore medio? Beh, è McDonald's da un lato, ma anche Starbucks, e poi la catena d'abbigliamento Gap e Walmart, che è appunto il colosso mondiale americano soprattutto delle vendite al dettaglio. Noi ogni tanto lo ripetiamo: negli anni 70 in media la differenza tra quanto percepiva il numero uno delle prime 100 società americane in questo caso e lo stipendio medio era di circa 71 volte, per cui guadagnava 71 volte in più il numero uno. Poco prima dello scoppio della crisi, quindi nel 2007, questo rapporto tra lo stipendio del numero uno delle prime 100 società americane e quello dei suoi dipendenti era passato a 240 volte, e spesso abbiamo detto, non mi sembra che i manager di adesso valgano 3-4 volte in più i manager degli anni 70, è tutto da dimostrare. Poi con quello che è successo nel mondo bancario mi sembra che forse valessero 3-4 volte in meno. Su Piazza Affari rispondo: non ho detto che Mediolanum affossi Piazza Affari, ho detto che pesa molto anche Eni, perché in percentuale è un peso più forte nel indebolire il nostro indice, appunto meno 2,24% Eni. Ma andiamo avanti. Per quello che riguarda l'Europa, le casse di risparmio tedesche e nella persona del loro presidente, il presidente dell'associazione delle casse di risparmio tedesche, Georg Fahrenschon, dicono che il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi ignori sostanzialmente le preoccupazioni dei tedeschi sul livello minimo dei tassi di interesse. Le preoccupazioni della Germania non sono quelle dell'ex malato d'Europa, ma della locomotiva tedesca, e hanno criticato le decisioni della Banca Centrale Europea recenti. Però attenzione, perché oggi è arrivato anche un allarme in generale dalla Corte dei Conti italiana, in questo caso, su segnali inquietanti di deflazione nel nostro paese che rischiano di appesantire il debito. Uno dei problemi della deflazione, cioè della non inflazione, dei prezzi che calano, è infatti che tu vai a pagare di più tutti i debiti. Perché questo? Perché se tu hai un'inflazione al 3%, vuol dire che i tuoi 100 euro nominali di debito dopo un anno valgono 97 euro reali, per cui ti costa meno in termini reali. Ma se tu hai una deflazione, poniamo del 3%, cioè i prezzi calano del 3% ogni anno, tu dopo un anno vai a pagare 103 in valore reale. E questo è un grosso problema, soprattutto per chi ha un grosso debito, che si chiama in questo caso Stato italiano. Restiamo sull'Italia, parleremo dopo dell'intervento del Presidente del Consiglio Letta che ha detto attenzione, tracciamo una linea netta senza sfumature tra chi ama l'Europa, ne riconosce le contraddizioni, vuole riformarla ma non piombare nel medioevo, nel populismo anti-Unione Europea. Letta anche ha detto che bisogna aggredire il debito perché ci costa 90 miliardi come interessi sul debito ogni anno e che il 2014 sarà il primo anno con il segno più dopo la crisi. Ha parlato anche delle privatizzazioni, non vi sarà nessuna svendita, ma lo Stato non può fare tutto, e confermando che il blocco che il blocco complessivo, il pacchetto complessivo delle privatizzazioni varrà circa 12 miliardi di euro, tra i 10 e i 12 miliardi di euro. Mentre su quello che è l'allarme della Corte dei Conti, il presidente Raffaele Squittieri, oltre a citare i rischi di deflazione, ha detto attenzione, il problema dell'economia italiana è un problema di crescita, ma in un'economia nel quale la spesa pubblica, devo dire che la Corte dei Conti fa parecchie denunce su questo, vale più della metà del PIL, nessuna crescita è possibile se la spesa pubblica non si farà più efficace ed efficiente. Vale più della metà del PIL perché la spesa pubblica è più o meno di 800 miliardi, il PIL è sui 1500 miliardi di euro. Ancora, spendere meglio le risorse che arrivano dal fisco. E poi attenzione, che l'unico modo, lo ricorda il neo presidente della Corte dei Conti Squittieri, per migliorare le condizioni di vita dei cittadini italiani è quello di avere più crescita economica. Sono circa 15 anni che la nostra economia fa peggio delle altre nelle fasi avverse e fa meno bene delle altre nelle fasi favorevoli. Peggiora di più e recupera di meno. Ne abbiamo bisogno per alleviare le condizioni di vita degli italiani, soprattutto di quelli meno abbienti. Ne abbiamo bisogno per poter offrire occasioni di lavoro ai tanti che ne sono privi, ma ne abbiamo bisogno anche per portare a compimento il faticoso percorso di risanamento delle nostre finanze pubbliche, certamente già avviato, ma certamente non concluso. Ancora due notizie. La Procura di Milano segnala come i reati di criminalità economica siano aumentati del 23% nei primi 9 mesi del 2013 e in particolare quelli fiscali più 60%. Come conseguenza, lo dice la stessa Procura di Milano nel bilancio di responsabilità sociale, come conseguenza in gran parte della crisi economica sono raddoppiati tra l'altro gli omessi versamenti IVA. E questa mattina è stato assolto un altro imprenditore che non aveva pagato l'IVA, si chiama Pierino Frattalone, titolare di un negozio Io Bimbo a Quarto. L'evasione da 76.000 euro di IVA è avvenuta nel 2009, anno in cui l'azienda era strozzata da problemi economici. È per questo motivo che il giudice ha valutato che il fatto non costituisca reato. È la prima volta che il Tribunale di Aosta emette una sentenza del genere, però ricordo che già fino a ottobre vi fu il caso dell'imprenditore milanese che aveva evaso 180.000 euro di IVA ed era stato assolto per lo stesso motivo. Di nuovo 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora iniziamo questa puntata con di nuovo il movimento dei cosiddetti forconi, che di nuovo ha creato blocchi e agitazioni, proteste in varie città d'Italia, di nuovo a Torino ma anche a Milano, e anche però dalle denunce di molti commercianti di avere subito, di essere stati intimiditi dal movimento stesso a non aprire e appunto minacciati nel caso avessero aperto i loro negozi. Ma appunto dei forconi ha parlato oggi sia il ministro dell'interno Angelino Alfano sia il presidente del Consiglio Enrico Letta. We'll be right back. faremo di tutto per assicurare la pacifica manifestazione di chi ha intenti pacifici, ma metteremo tutta la forza dello Stato contro violenti e delinquenti che attentano alla libertà degli altri. Noi abbiamo segnali chiari sia dal punto di vista delle nostre analisi sia dal punto di vista dell'intelligence, e non sto qui ad aggettivare alcune ali estreme di questi movimenti, ma certamente i nostri occhi sono su di loro e sappiamo esattamente quello che c'è da fare se costoro esagereranno. Beh, pesantina la denuncia del ministro all'interno Angelino Alfano. Forconi si è parlato oggi anche alla Camera, quando insomma ha citato la manifestazione il premier Enrico Letta, attaccando anche in maniera abbastanza esplicita insomma il Movimento 5 Stelle. Da lì è nato appunto uno scontro anche in aula. Sentiamo questo passaggio dell'intervento prima delle dichiarazioni di voto del premier Enrico Letta. È vero, l'Italia è oggi una società fragile e stordita dalla crisi. È però nello stesso tempo una società pronta, dopo tanti sacrifici, a ripartire. È nostro compito, anzi è nostro obbligo, anche generazionale, guidarla in questa ricostruzione. Essere qui per me è un privilegio e un dovere insieme, perché questo è il Parlamento della Repubblica, perché le istituzioni esigono rispetto, lo esigono sempre e lo esigono a maggior ragione in un tempo così amaro, nel quale sempre più spesso si tenta di immiserire quest'Aula con parole e azioni illegittime. Sono parole e azioni figlie di una cultura politica che mette all'indice i giornalisti, avalla la violenza, vuole fare macerie degli edifici stessi della democrazia rappresentativa. Arriva a incitare all'insubordinazione le forze dell'ordine. Forze dell'ordine che invece io qui voglio ringraziare davanti a voi e al Paese per la fedeltà indiscutibile ai valori repubblicani che dimostrano ogni giorno. E poi duro scontro in aula con accuse anche dei deputati di PD al Movimento 5 Stelle di essere fascisti. Letta è tornato ad attaccare il Movimento 5 Stelle anche nella sua replica. E sono convinto che una democrazia si basa sul fatto che ci sia la migliore delle dialettiche possibili, che è il modo migliore per obbligarci a fare cose. Io per esempio, quando ho sentito prima delle cose anche del tema del finanziamento pubblico dei partiti, ma voi volete che si risolva o volete continuare ad accusare gli altri e le istituzioni di non averlo risolto? È una differenza di fondo questa qua, è una differenza di fondo. Perché se volete che si risolva, allora la discussione che faremo nei prossimi giorni per chiudere questa vicenda entro la fine dell'anno dovrà essere una discussione in cui ognuno di noi darà atto. Colleghi, può terminare senza interruzione, poi sarà il vostro turno. Ci sono delle regole, per favore. Colleghi, ognuno di noi darà atto, e in questo caso io non ho dubbi che dare atto al Movimento 5 Stelle di aver agito su questo tema con determinazione è un fatto assolutamente normale e giusto, ma tutto questo, se si riesce poi ad arrivare a riconoscere che approvare definitivamente è molto meglio che discutere di tutte queste cose, responsabilità che ci dobbiamo prendere noi, che ci prenderemo. Allora, poi ne parleremo anche nella seconda ora del programma per quello che riguarda appunto la nota e l'analisi più politica, però io vorrei sentire appunto anche, tutti abbiamo ospitato in questo programma, anche alcuni rappresentanti del movimento cosiddetto dei Forconi. Mariano Ferro è uno dei leader del movimento siciliano dei Forconi e ha accusato anche i media, diciamo, di una specie di complotto dell'informazione. La ringrazio per averci raggiunto in collegamento, buonasera. Salve. Allora, Dunque, intanto un paio di cose. Lei ha sentito anche il passaggio del ministro degli interni Angelino Alfano, che è suo conregionale, sul rischio di infiltrazioni della criminalità. Una cosa. Mi dica. Sono d'accordo con Alfano. Oh, bene. Ma sa perché? Perché? Perché Alfano deve giustamente distinguere fra quelle persone oneste che vogliono protestare perché hanno addosso e sulle spalle quei problemi, e quei delinquenti che io chiamo come lui, perché giustamente dice bene delinquenti, quelli sono delinquenti che non hanno nulla a che fare con la protesta, quelli sono delinquenti che stanno semplicemente inquinando la protesta, che la stanno strumentalizzando in tutti i modi, la stanno rovinando e stanno facendo un favore al sistema, e ancora una volta probabilmente ci creeranno qualche problema per risolvere i problemi. Quindi, se ho ben capito, lei, che è uno dei leader dei forconi siciliani, dice che Letta ha ragione, Alfano ha ragione, certo, nel cercare, quindi certo anche a lei risulta, però, che vi siano, però, no, scusi, una cosa per volta, anche a lei risulta che vi siano infiltrazioni di personaggi che nulla hanno a che fare con il vostro movimento? Ma è ovvio, non è che, ma è ovvio, cioè siamo noi che chiediamo alle forze dell'ordine e alle istituzioni di separare la nostra protesta con quelli, non c'entriamo nulla, perché questi, ripeto, probabilmente ci creeranno moltissimi problemi per cercare di risolvere e dare soluzioni alle vertenze che abbiamo messo sul tavolo. Ecco. I primi a lamentare questa cosa è che purtroppo siamo messi di mezzo come se facessimo di tutta l'erba un fascio, i primi a lamentare tutto questo siamo noi. Ma voi non riuscite ad allontanarli, avrete anche un'idea, chiedo, Di chi partecipa al vostro movimento, perché appunto poi verremo alla parte di su cosa protestate e cosa proponete, e chi invece lo fa dall'ultras calcistico appunto al filiato di mafia, 'ndrangheta o camorra, per creare solo confusione ma senza una proposta vera e propria, e anche per motivi criminali in alcuni casi. Guardi, non è la prima volta. Che c'entra l'ultras di mafia col signore che si è che ha chiuso la sua azienda? Che c'entra il mafioso? Che c'entra il reversivo? Cosa c'entrano? Nulla. Non è la prima volta però che capita tutto questo, e purtroppo ci siamo abituati. Però questo non è un alibi per il governo per dire che tutta l'erba è un fascio. Non è un alibi, perché io ho sentito dire ad Alfano solo delle cose che sono ovvie contro questi signori. Il problema è che non ho sentito dire però a Saccomanni o al ministro delle attività produttive, non so nemmeno chi sia, o a qualcuno del governo dire parliamo dei problemi che avete messo sul tavolo. Non c'è una dichiarazione in questo senso, stiamo parlando solo di ordine pubblico. Allora, pensate che ci possa aiutare a chiarire? No, tutto questo ci deprime, perché io devo dirle la verità, io sono preoccupato, perché sta prendendo una piega sbagliata la manifestazione. Ma la piega sbagliata arriva dal fatto che se noi invece avessimo avuto un invito da parte del governo per dire sediamoci e parliamo, ma sediamoci e parliamo, però ho sentito dire a Letta poco fa, non l'avevo sentito per la verità oggi, non ho avuto il tempo, poco fa nella registrazione che avete mandato in onda voi, ho sentito dire a Letta della democrazia rappresentativa. Devo dire che non sono d'accordo per un motivo, perché qui non è una democrazia rappresentativa, qui è una democrazia nominata. Non è la stessa cosa. Ci sono c'è tanta distanza fra una democrazia rappresentativa e una democrazia nominata. Proprio perché è nominata, oggi nascono i problemi. Non è colpa nostra se tutto questo avviene. Perché nascono i problemi? Perché se tutti questi nominati fossero stati invece scelti, probabilmente noi oggi avremmo dei rappresentanti dei territori ai quali avremmo chiesto le nostre lamentele, perché ci avremmo chiesto di risolvere tutto quello che sono i nostri problemi. Non ce li abbiamo, perché i nominati guardano al segretario di partito, non guardano ai territori a risolvere i problemi. Questo è il grande dilemma di questa democrazia, perché tutto questo nasce dal fatto che invece di essere scelti a rappresentare il popolo, qui abbiamo un Parlamento di nominati e un governo che non abbiamo scelto noi. A me può anche piacere o non piacere Letta, ma non l'hanno scelto gli italiani Letta. Allora, no, ho capito. Da un lato lei sta ponendo un problema di rappresentanza politica, e se ho ben capito la riforma elettorale, perché se dite non sono stati scelti, io capisco che è una critica al Porcellum, su cui le do ragione al 100%, così come lo dico anche a chi sta scrivendo. Questo programma denuncia modestamente da anni gli sprechi della pubblica amministrazione, delle regioni, dello Stato, anche di alcune aziende private, anche l'attività, diciamo, quando necessario, bancaria. Abbiamo denunciato anche una politica sempre più distante. Il punto mi sembra passare, intanto scegliere quale tipo di protesta e poi a capire quale tipo di proposta da parte vostra. Allora, se mi dà ancora 4 minuti, io alla pubblicità il metto, vorrei capire, ho capito, la riforma della legge elettorale, andiamo per estremi, per concetti molto sintetici, riforma della legge elettorale, perché questo governo non è stato eletto, è frutto di un porcellum e poi anche di un accordo più o meno bipartisan, ma che cosa proponete? Perché dentro il movimento dei forconi, o dei movimenti di questi giorni, chiamiamoli così, ci sono anche, c'è una componente importante degli autotrasportatori. Allora, noi ascoltiamo le richieste di tutti, però va anche precisato che il settore dell'autotrasporto, infatti le altre sigle sindacali hanno firmato l'accordo, riceverà nel 2014 330 milioni di euro in sussidi pubblici. Sarà poco, sarà tanto, ma li riceve. Negli ultimi 10 anni lo stanziamento per gli autotrasportatori, per i camionisti, è stato di pari a circa 5 miliardi di euro, mezzo miliardo all'anno. Poco, tanto, ma c'è. Per cui vorrei capire che cosa proponete, oltre che se lei ritiene tutte legittime le proposte, perché le farò ascoltare anche la denuncia della CNA Liguria su quello che è successo in Liguria, le minacce ai commercianti. Allora, la protesta va bene, le minacce no e mai, se no torniamo indietro di 30 anni, visto che oggi festeggio compleanno, andiamo dal 68 in giù. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Focus Economia. La giornata di ieri è stata diversa da quella, diciamo, dalla prima giornata, dove sicuramente hanno partecipato anche, voglio dire, imprese, cioè dove c'è stato un movimento di un certo tipo. Quella di ieri invece alla Spezia, come sa, c'è stato poco e nulla. A Imperia invece c'è stato veramente un momenti di forte tensione. Imperia ancora oggi c'era il tantam che oggi avrebbero in una qualche maniera mirato banche e supermercati, mentre ieri hanno mirato i mercati e diciamo i negozi. E ci sono stati momenti, ora mi raccontava proprio la presidenza provinciale di Imperia, che ha proprio un bar dove sono arrivati, voglio dire, vari ragazzi a urlare, a minacciare, e poi è intervenuta la camionetta della polizia, perché loro hanno chiamato la polizia perché erano spaventate proprio, no? Ci sono state minacce, diciamo, sia sul mercato sia negozi, intimando, diciamo, la chiusura delle saracinesche, tra l'altro con gruppi, diciamo, di persone di vario tipo che non erano del luogo, perché questo, voglio dire, una cosa che hanno notato tutti, con inflessioni varie dialettali, ma non certo, voglio dire, genovesi, che giravano per il centro intimando la chiusura delle attività. Allora, così il presidente della CNA Liguria, Marco Merli, oggi intervistato dal nostro Simone Spezia nel corso di Effetto Giorno. Mariano Ferro, lei che è uno dei leader del movimento dei forconi siciliani, possiamo dire innanzitutto che intimare la chiusura, minacciare che un commerciante chiuda, è sbagliato? Cioè, voi protestate, ma non è che tutti gli altri devono adeguarsi, o no? Come faccio a farvi capire che questa cosa è ovvia? No, basta, a me basta che me la dica, già la capisco. Cioè, ma il presidente della CNA sta raccontando una cosa che io condivido. Il problema che vorrei chiedere alla CNA è, però, ha chiesto ai negozianti come stanno? Ma bella CNA. Voglio dire, pando a questi quattro delinquenti per trovare le ragioni e dire che questo sciopero è sbagliato. Okay. Ma quanto accade? Ma si sono chiesti perché accade, lasci perdere i delinquenti, possiamo passare il tempo a discorrere? No, voglio che adesso lei mi dica esattamente, nel caso vostro, noi denunciamo da 2 anni, 3 anni, tutte le volte che abbiamo elementi, gli sprechi sui costi di formazione, sui musei tenuti aperti anche senza visitatori, sulle paghe ai dipendenti della regione siciliana. Allora, domanda, che cosa volete ottenere e perché la manifestazione non me la fate anche davanti, sempre pacifica, sempre nel limite della legalità, davanti alla Regione Sicilia? Qual è l'obiettivo che volete raggiungere? Quante ne abbiamo fatte davanti alla Regione Sicilia l'anno scorso dopo quello che era accaduto? Le abbiamo fatte pacifiche, il sottoscritto che le sta parlando ha calmato gli animi a 20.000 persone che volevano sfondare il palazzo l'anno scorso. Voglio dire, se tutto questo accade non è colpa nostra, perché la rabbia ormai è, scaturisce dal fatto che dopo che hai fatto 20-30 manifestazioni pacifiche, hai incontrato Crocetta, hai incontrato tutti quanti, hai parlato con Lombardo, è nato il tavolo a Roma, se tutto questo poi alla fine si è sciolto nel nulla, cosa deve fare la gente per farsi sentire da questi governi? Mi spiegate per favore, lo posso chiedere alla CNA? Ci sediamo ad un tavolo che sicuramente è democratico, pulito, ma se poi finisce tutto nel nulla e la vita la roviniamo ancora anno per anno a migliaia di persone, di negozianti, di artigiani, di commercianti, se tutto questo accade sempre e si ripete, qual è la soluzione? Me lo dica lei, la soluzione qual è? Bloccare il traffico? No, ti chiedo. No, la soluzione non è bloccare il traffico. La soluzione per farsi creare l'attenzione a questi problemi qual è? Diteci qual è, perché dobbiamo fare la manifestazione a Roma, benissimo. Facciamo la manifestazione a Roma per fare cosa? Per sederci ad un tavolo e farci prendere in giro. Va bene, possiamo anche farlo. Ma pensa che risolviamo i problemi? Allora, cioè, se alla fine in questo paese lo sviluppo si fa facendo e mettendo tasse, crede che è una cosa normale? Cioè, aumentiamo la benzina, aumentiamo l'IVA, mettiamo la TARES, mettiamo l'IMU, la paghiamo, non la paghiamo, tutte queste sono le soluzioni per cercare lo sviluppo e creare cercare di liberare le attività per vedere di creare lo sviluppo e occupazione. Questa è la ricetta. Sì, mi scusi. Cioè, prego. Allora, queste cose noi le diciamo modestamente da mesi, cioè tutte le volte che il governo fa una manovra di sole tasse in cui la riduzione del cuneo fiscale non c'è, le dicono anche le associazioni di categoria. Ma io vorrei capire, ok, l'obiettivo vostro è, con una manifestazione che crea disagio alle persone normali, sensibilizzare il governo sulla sofferenza di intere categorie e ceti sociali. È questo? Perfetto. L'avete fatto. Domani, se non c'è un'iniziativa politica su questo, non voglio dare suggerimenti, si riparte da zero. Cioè avete sostanzialmente creato disagi ad alcuni cittadini, migliaia di cittadini. No, perché sembra quasi che fare proposte di legge, fare un tavolo non serve a niente. Mentre bloccare la tangenziale, però, sì, io non lo so, non ho visto tutti questi effetti. Mi dica, io le dico che noi abbiamo creato disagi alla popolazione. Ora passiamo la palla al governo. Se il governo però di tutto questo parla solo dei disagi e parla solo di quattro delinquenti che hanno distrutto vetrine e compagnia. Allora, facciamo un esempio concreto. Per gli agricoltori siciliani non solo, lei che è un agricoltore, che cosa chiedete? Abbiamo chiesto da anni quello che è successo alla Coletti al Brennero. Sa che cosa? La protezione di quelli che sono i nostri prodotti, la difesa dei nostri prodotti. Vuole sapere qual è il problema in questo paese? Lo spiego. Ed è successo che lei l'avrà letto. La Confindustria, come vede, dopo che c'è stata la ministra, cosa caso strano, è andata a fare i blocchi pure lei al Brennero, perché arrivavano i prosciutti dalla Russia e poi diventano prosciutti di Parma. La ministra ha partecipato perché è ovviamente sensibile a questi problemi. Domando, la ministra intanto doveva essere al governo per cercare di sanzionare tutti quelli furbi che fanno questo lavoro, perché sono prosciutti russi e mettono che sono prosciutti di Parma IGP, no? Giusto? Benissimo, sa che cosa ha detto la Confindustria in questo paese? La Confindustria in questo paese ha detto che non era indignata del fatto che ci fosse la ministra. Benissimo, sa perché? Perché dipende dagli iscritti che fanno questo taroccamento di prodotti. Dove lo mettiamo? A chi no, guardi, da quello che so io è un po' diverso, nel senso che tutelare, no, aspetti un attimo però, tutelare quella che è la dicitura corretta, cioè se un prodotto agricolo, in questo caso cioè un prosciutto, viene fatto solo con maiale italiano, lo metti nell'etichetta, però il valore aggiunto della bresaola, non mi faccio tornare sulla bresaola e sul prosciutto, visto che mucche, non maiali, in Valtellina ce ne sono poche, e visto che noi dobbiamo importare suini e bovini per le nostre produzioni anche della carne e dei salumi, allora io dico, ma è meglio poter vendere più grana padano oppure più salume macellato in Italia, prodotto in Italia, anche se il latte in sé e il salume in sé, il maiale in sé o la mucca in sé non arriva da fuori, oppure rinunciare a fette di mercato basta, perché tutti i maiali, tutto il latte, tutta i suini devono essere italiani. Perché da questo punto di vista lei sa meglio di me che non ci sono abbastanza maiali intesi come animali in Italia. Ma quando arrivano dalla Russia, gli industriali difesi dalla Confindustria non devono mettere che il prosciutto di Parma solo perché è arrivato a Parma e lo lavori a Parma. Quello è prosciutto russo. Sì, intanto arriva la carne da fuori e poi viene lavorata a Parma. Sulla base di questo principio, però mi scusi, sulla base di questo nessuno potrebbe produrre moda e abbigliamento in Italia perché i tessuti li prendiamo da fuori. No, ma mi faccia capire, allora, vi fate un male da solo. Allora, altra cosa, se lei mi dice il prosciutto di Parma vero, che fanno? Muoiono, si appendono, che fanno? Ma no, trovate un modo per cui si possa mettere. Troviamo come... un modo, l'abbiamo detto, i produttori di ciliegino di Paghino, un prodotto conosciuto in tutto il mondo. Se il ciliegino di Paghino, perché somiglia, arriva da Tunisi, quello è ciliegino di Paghino perché lo mettiamo nelle cassette di Paghino? No, è il ciliegino di Tunisi. Sa che cos'è la punizione per questi signori che fanno taroccamento? 600 euro di multa. Secondo lei è normale distruggere le attività di Paghino solo perché dobbiamo fare 600 euro di multa? Non sarebbe normale difendere il lavoro e il prodotto italiano? Mi scusi, ma non si può far prima a manifestare, a fare un blocco, adesso che uno lo condivida o no? Io penso che ci siano dei grossi rischi di effetto boomerang su un'industria, nel caso specifico l'industria agroalimentare italiana, che è anche molto di trasformazione, per cui rischiamo, io mi ricordo qua legge pazza sul Made in Italy che andava a far male alle industrie italiane. Però detto questo, non avrebbe più senso andare a fare anche la manifestazione, ma poi portare in incontro col governo una richiesta forte? Perché sennò la mia sensazione è che in questo modo, col caos che è venuto fuori, questa richiesta molto concreta neanche emerge, emerge solo un movimento che sta creando disagio. Chiedo. Guardi, quando, allora le faccio il riferimento più concreto. Io sono un piccolo produttore con 20 ettari di serre. Mi ha distrutto la vita il fatto che arriva prodotto che viene dall'estero e che, avendo costi di produzione che sono un ventesimo del nostro, un decimo del nostro, sicuramente questi signori che portano questo prodotto praticamente fanno abbassare i prezzi al prodotto locale. Questo prodotto tunisino, per dire, tanto per dire, fare un esempio, arriva qui in Sicilia, avendo il marchio siciliano, ha un valore aggiunto perché è prodotto italiano. Però comprandolo da Tunisi costa 30, 40, 50, un euro meno di quello che può costare facendolo in Italia. Benissimo, conviene a chi lo fa? Bene. I piccoli produttori a Paghino, se lei va a Paghino e fa un'indagine, sono tutti esecutati dalle banche ed esecutati da Equitalia, perché ormai questa concorrente ha distrutto il mercato del prodotto locale. Ora, se tutto questo continua così, abbiamo distrutto un'economia. Siccome vale per il prosciutto di Parma, vale per il ciliegino di Paghino, vale per i formaggi della Valtellina, vale per tutto quanto, per il parmigiano reggiano che arriva dall'America, quindi tutto questo distrugge un prodotto. Ora è chiaro però che c'è anche in questo mercato il più furbo, il più forte, che riesce a scontare un prezzo minore e quindi riesce a vivere e a sopravvivere nel mercato. Ma è anche vero che i piccoli produttori locali, che sono una migliaia di piccole e medie imprese che esistevano in Italia, erano il bando di questo paese, sono morte, sono distrutte. Vogliamo ancora insistere a non capire che è così? Allora, facciamolo. Vabbè, adesso io devo lasciare, siamo liberi di farlo, sì. Attenzione, il governo si può anche girare dall'altra parte, ma è vero o non è vero che questo è il paese delle piccole e medie imprese? Lo hanno chiuso 3 giorni di sciopero dei forconi per le piccole e medie imprese del Veneto. Il tessile di Prato, che nessuno ha difeso nelle mani dei cinesi, sì, è morto perché c'è stato lo sciopero dei forconi. Vabbè, dai, ripudiamo in toto la globalizzazione. Ferro, ho capito, secondo me le misure devono essere più concrete, perché è inutile che qualcuno scriva lei difende il taroccamento, ma cosa state dicendo? C'è un disciplinare da rispettare e il disciplinare viene rispettato. Nel caso dei prosciutti ho capito benissimo cosa dice lei, però vogliamo produrre solo prosciutti con maiali italiani, riduciamo la produzione di un sesto, lo spiegate ai dipendenti delle aziende del Parmense, di San Daniele, di altre regioni che andranno in cassa integrazione perché i maiali devono essere solo italiani. Torniamo indietro al Medioevo, glielo dico perché anche il ragionamento che lei mi sta facendo sulle aziende di Prato e la Cina, ma vogliamo smettere di pensare che l'Italia possa competere con le produzioni a basso valore aggiunto come erano quelle pratesi in alcuni casi? Poi se sono illegali, abbiamo fatto intere puntate su questo, ma altra cosa, dire che noi dobbiamo chiuderci a riccio, bloccare le frontiere, è assurdo, lasci che glielo dica. Detto ciò, la ringrazio, l'abbiamo fatta parlare per mezz'ora, come vede non c'è nessuno ostracismo, sto facendo sballare tutti i tempi, traffico, meteo, pubblicità, GR, ci rivediamo alle 18:07 se tutto va bene. Focus Economia. We'll be right back. 18 e 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso c'è la borsa e poi l'analisi anche dei temi di politica economica dei due interventi del Presidente del Consiglio Letta. Allora, una cosa però sui forconi. Andiamo con ordine. A chi dice, lei non ha lasciato parlare, abbiate pazienza, abbiamo parlato per mezz'ora con Mariano Ferro, ha avuto modo di dire che era d'accordo con Alfano sulle infiltrazioni della criminalità organizzata e di spiegare qual è, dal punto di vista degli agricoltori, l'obiettivo del movimento dei forconi. Due altre precisazioni. Occorre distinguere tra materia prima e prodotto finito, e questo lo dico perché sennò andiamo in un cortocircuito totale. Fermo restando che il disciplinare prevede, hanno ragione gli ascoltatori, per il prosciutto di Parma, San Daniele, l'utilizzo di carne italiana, Parma, Modena, San Daniele, e che i prosciutti e che il maiale che arriva dall'estero viene usato per altri salumi che si possono chiamare in altro modo, ma questo avviene anche per altri disciplinari, penso all'olio d'oliva. Il disciplinare prevede che sia extravergine perché ha il 100% di olio d'oliva, ma non specifica se poi le olive vengono dal Marocco, dalla Spagna e quant'altro, costeranno meno, è vero. Poi ci sono oli d'oliva che recitano la dicitura fatto solo da spremitura di olive italiane, questo vale oltre che per i disciplinari anche per altri mercati. Quello che stiamo dicendo è che immaginare di bloccare le frontiere tutto quello che è l'approvvigionamento di materia prima per poi la trasformazione dell'industria, di ciò che resta dell'industria agroalimentare italiana, è una follia. Altra cosa è dire che venga specificato se a parte che, ripeto, alcuni disciplinari specificano e obbligano, se tu lo chiami San Daniele o Parma devono essere maiali italiani, ma obbligare o mettere la dicitura prodotto solo con materia prima italiana va bene, vale anche. E poi ricordatevi che da questo punto di vista non saremo mai in grado di competere con paesi dove il costo della manodopera è più bassa, vale anche per l'agroalimentare. Il pomodoro di Pachino che veniva citato da Ferro non nasce perché abbiamo protetto i pomodori italiani, nasce perché c'è stata un'operazione anche di marketing oltre che di qualità sul prodotto, per cui è diventato di moda il pomodoro di Pachino. È l'unico modo, se vogliamo competere col costo della manodopera di altri paesi, e il gioco è già finito, le frontiere non le puoi chiudere. La WTO, ne parleremo, ha appena firmato un altro accordo di libero scambio su questo, ma di che cosa stiamo parlando? Tutto nel allora chiedete una modifica del disciplinare in alcuni casi, va bene, però è inutile immaginare di bloccare quello che è l'approvvigionamento. Ripeto, l'Italia non ha abbastanza maiali, mucche, latte. Allora c'è chi mi scrive, certo dobbiamo produrli tutti noi, va bene, andiamo a vedere i numeri e poi ci divertiamo. Allora, sui bovini, noi abbiamo 5.800.000 bovini, ne abbiamo importati 1.100.000. Cosa facciamo? Siccome il bovino ha anche lui le sue modalità di crescita, blocchiamo l'industria, un quinto dell'industria agroalimentare italiana, perché non importiamo più bovini da fuori. Allora, i maiali in Italia sono 8.600.000, ne importiamo un numero quasi doppio, anche lì. Cioè, di che cosa stiamo parlando? Non faccio l'esperto mentre chi produce non è più al telefono, glielo dite anche in faccia a Mariano Ferro le cose. Per favore, bisogna ragionare sul merito, non sugli slogan. Capisco benissimo che dire blocchiamo le importazioni di materia prima agroalimentare che danneggia la nostra produzione sia molto efficace, molto bello come slogan, poi bisogna vedere se questa cosa è fattibile, percorribile o non va a danneggiare altri comparti della nostra industria. Su. Mm-hmm. Vabbè, alcuni anche sul vino. Il vino rispetta il disciplinare. Qualcuno ricorda cosa è successo al Brunello di Montalcino quando si scoprì che le uve non venivano da Montalcino? Allora, attenzione, ci sono, lavorate su questo, sulla modifica del disciplinare, ma non dicendo bisogna bloccare le importazioni di materia prima dall'estero. Vediamo se riusciamo a fare anche la borsa oggi, che ha chiuso in calo del meno di l'1,44%, mentre Parigi ha fatto meno 0,10, l'America sta facendo meno 0,50, Londra meno 0,20 e Francoforte ha fatto meno 0,40%. Come sempre la facciamo con i colleghi di Radio Cori, Sole 24 Ore. Il caso di borsa oggi, i casi di borsa si chiamano, da un lato Mediolanum, che ha perso il 6,85%, ma anche Pirelli meno 3,30%, Telecom meno 3,20% ed Eni, che pesa molto sull'indice, meno 2,12%. Eleonora Micheli, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, Mediolanum, Pirelli, Telecom ed Eni. Sì, Mediolanum ha perso quasi il 7%, ma il calo era abbastanza da mettere in conto, visto che già ieri sera era stato annunciato che Fininvest avrebbe ceduto il 5,6%, poi abbiamo scoperto che è stato ceduto a 6,12 euro. I titoli si sono allineati e poi anzi hanno chiuso a un prezzo inferiore a 5,98 euro, risentendo ovviamente della valanga di azioni che sono arrivate tra gli investitori istituzionali. Con questa operazione la Fininvest si è portata a casa proprio oggi 252 milioni di euro. Per quanto riguarda Telecom, ha perso oltre il 3%, in questo caso paga il timore che la Consob, già a partire dai prossimi giorni, possa stringere su Telecom e possa in particolare puntare l'indice sulla cessione di Telecom Argentina avvenuta di recente, oltre che sull'operazione del convertendo, su cui ci sono luci e ombre sulle quali ha sollevato dubbi lo stesso azionista Marco Fossati. Pirelli meno 3%, meno 3,27 per l'esattezza, ma in questo caso si tratta più che altro di prese di beneficio. Solamente da inizio settembre i titoli continuano a vantare un progresso di oltre il 20%. Ancora, per quello che riguarda altri titoli, citiamo anche il caso di Assorin e Parmalat, li archiviamo col fatto che usciranno il prossimo 23 dicembre dal FTSE MIB di Assorin meno 2,81%. Per quello che riguarda i bancari, mi chiedete, deboli oggi, Mediobanca meno 2,30%, Popolare Emilia Romagna meno 2,13%, Pop Milano meno 1,80%, UbiBanca meno 1,30%, come Intesa San Paolo e Unicredit. Vorrei andare anche su Monte dei Paschi di Siena, perché il titolo si è mosso negativo meno 1,16%. Ma lì si attende una risposta, eh? Esatto, una risposta che a questo punto il consiglio di amministrazione della banca deve dare alla fondazione. Ricordiamo che la fondazione ha detto che voterà sì all'aumento di capitale da 3 miliardi all'assemblea del 27 dicembre, purché l'operazione sia effettuata nel secondo trimestre. Oggi Antonella Manzi, il presidente della fondazione, indica giugno come data per l'aumento di capitale. E a questo punto, d'altra parte, il consiglio di amministrazione deve dare la risposta, perché l'operazione è già pronta per gennaio, e peraltro le banche del consorzio di garanzia che garantiscono evidentemente l'operazione sono disposte a dare garanzia fino a fine gennaio, quindi è un po' complicato anche rivedere l'operazione, ma vedremo ad ogni modo quale sarà la strategia di Alessandro Profumo e di Fabrizio Viola. Ancora tra i titoli oggi in positivo Ferragamo più 0,14%, World Duty Free alla fine invariata, anche se c'è movimento tra i proprietari qui. Sì, World Duty Free ha chiuso invariata, ma oggi andava bene. Ci sono degli studi positivi da parte degli analisti, sia perché crescerà, o almeno si pensa, il traffico aeroportuale del 5% in un'ottica di medio-lungo periodo, sia perché si inizia a pensare che effettivamente Benetton possano scendere dall'attuale 50% al 30%, chissà, magari effettuando operazioni straordinarie. Del resto Benetton stesso l'ha più volte ipotizzato. Migliori e peggiori in assoluto, KR Energy più 12%, Digital Magix più 6,90%, RG Capital più 6,80%, fronte opposto, Banca Popolare dell'Etruria meno 10%, Alcatel meno 8,90% e la Juventus meno 7,50%. Grazie, Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore. Allora, vabbè, torneremo sul tema di come si difendono i prodotti italiani, però vi ricordate quando c'era tutta la polemica sui dazi da mettere alle importazioni di scarpe, tessuti? L'industria italiana dell'abbigliamento non ha recuperato posizioni andando a far concorrenza là dove il costo del lavoro è più basso. La storia del nostro export, che ha risultati eccellenti, anche l'agroalimentare ha risultati eccellenti, il successo è arrivato dal riposizionarsi su fasce più alte. 1, per cui anche nell'agroalimentare i successi di alcuni produttori, pensate a Italy, ma non solo, è perché tu ti riposizioni su prodotti di qualità che costano più cari, e non possiamo obbligare il paese a spendere di più in generale per salvare alcune produzioni che non sono più competitive, perché poi va detta tutta la cosa: volete solo il prodotto italiano, costerà un po' di più, no? In questo periodo vuoi un prodotto, diciamo, non italiano, fermo restando che deve rispettare la disciplinare, che deve essere chiara questa cosa, costa un po' di meno se arriva da prodotti con un costo della manodopera più bassa. E poi la vera battaglia, se permettete, andrebbe fatta, e spesso ne abbiamo parlato, su tutto l'Italian sounding, cioè quelle cose che valgono 3 volte il nostro export dell'agroalimentare, che sembrano italiane ma sono prodotte in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, in Germania, in Canada e nei vari paesi. Allora, quella è la battaglia sacrosanta, perché vai a ingannare un consumatore con nomi simili a quelli originali, con bandiere italiane e altre amenità, ma non chiedere che praticamente i maiali, le mucche e i pomodori pacchino siano tutti che tutti i pomodori siano italiani e blocchiamo le frontiere. Questo non ha obiettivamente senso. Comunque, traffico e poi ultima parte del programma. Focus Economia. La caduta del PIL si è arrestata, come dimostra il dato di ieri sul terzo trimestre dell'anno, il primo dopo oltre 2 anni senza un segno negativo. Il Paese oggi può ripartire. Naturalmente però dobbiamo attuare le misure già approvate e varare subito riforme indispensabili per rendere strutturale il recupero di competitività. Il 2014, dicevo, sarà il primo anno col segno più dopo il buio della crisi. È un risultato non scontato. Pur con molte difficoltà possiamo incassare il dividendo della stabilità, senza il quale avremmo avuto certamente un innalzamento dei tassi di interesse che a loro volta avrebbero strangolato la crescita. Siamo l'unico grande paese d'Europa con la Germania sotto il 3% di deficit. Il surplus primario, cioè la spesa al netto degli interessi, è oggi al 2,5%. Siamo quindi, sempre assieme alla Germania, i più virtuosi insieme tra i grandi paesi d'Europa. È vero, abbiamo il debito pubblico che è colossale. Lo stiamo aggredendo, lo dobbiamo aggredire. Inizierà a scendere nel 2014 dopo 5 anni di crescita ininterrotta. È importante perché ce lo chiede l'Europa? È importante e fondamentale perché un debito pubblico così alto in rapporto al PIL ci costa troppo. Quest'anno spenderemo quasi 90 miliardi di euro in interessi. 90 miliardi di euro. Una decina di leggi di stabilità. Soldi buttati. E poi Letta ha anche aggiunto: non ci voti la fiducia, chi usa il populismo anti-europeo. Ha detto: tracciamo una linea netta senza sfumature. Di qua chi ama l'Europa, ne riconosce le contraddizioni, vuole riformarla, ma sa anche che senza l'Unione Europea ripiombiamo nel Medioevo. Di là chi vuole bloccare l'Unione Europea. Allora, a me sembra, Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, delle volte insomma, è più difficile ragionare che parlare per slogan, ma tra accettare l'Europa così com'è, che obiettivamente ha 1000 limiti, soprattutto nelle politiche di bilancio e soprattutto in quella che è la posizione tedesca, e mandare a mare, mandare a gambe all'aria l'intera Europa, ci sia una bella differenza tra, voglio dire, i massimalismi miopi e invece la difficoltà di cambiare le cose con fatica. Vale anche per tutte le cose che sto leggendo sulle materie prime, sul popolo dei forconi. Detto questo, però, è innegabile, Guido, che il cortocircuito tra vittoria di Renzi con un nuovo programma, movimento dei forconi, l'annusamento di Berlusconi, oggi ha cancellato l'incontro con il popolo dei forconi per non essere strumentalizzato, quello che è successo con il Movimento 5 Stelle anche in aula, beh, insomma, molti lo vedono un filo comune denominatore in questo, cioè una situazione che sta ribollendo e non poco. Guido? Eh sì, siamo al cospetto di un cocktail esplosivo, sociale e politico, anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha azzerato il Porcellum, ma ovviamente ha aperto un problema gigantesco, aprendo un dibattito nel Paese sulla delegittimazione o no del Parlamento, delle Camere, della politica, insomma. Quindi siamo in una situazione difficile e Letta oggi ha fatto un discorso, appunto, che ha richiamato alla necessità di evitare qualsiasi forma di populismo anche europeo. Su questo ha ragione. L'importante però è discutere nel merito dei problemi che abbiamo di fronte, comprese quella di un'Europa che è evidentemente a trazione tedesca, e non basta dire che noi siamo virtuosi dal punto di vista del saldo primario di bilancio, cioè al netto degli interessi, e siamo come la Germania e siamo gli unici paesi insieme alla Germania che siamo sotto il vincolo del tetto del 3% del deficit. Questo non basta, sappiamo che dobbiamo crescere di più. E il governo ha fatto un atto di fiducia su quello che è il futuro prossimo del Paese, quindi il 2014, dicendo che cresceremo dell'1%, del 2% nel 2015. Sono ipotesi che da molti economisti autorevoli vengono definite troppo ottimistiche. E quindi discutiamo nel merito dei problemi, di quello che c'è da fare. Ovviamente le cose da fare sono tante, ma è finito il tempo degli annunci, dei rinvii, non ci sono più alibi. Ormai le uniche cose che contano, perché la gente non ascolta più, diciamo, la riproposizione degli impegni. Pensiamo a quello, diciamo, alla promessa abolizione delle province o allo stop del finanziamento pubblico dei partiti. La gente non ci crede più, giustamente, secondo me, e quindi bisogna dare delle risposte in concreto su questi temi. Sì, avviso il rischio più forte qui, e lo dico con massimo rispetto per tutti, è che se non arriveranno delle risposte, che non sono arrivate, voglio essere molto chiaro su questo, tu vai a estremizzare tutti i ragionamenti, perché quello che sta succedendo col cosiddetto popolo dei forconi, è chiaro che c'è anche una responsabilità della classe politica che ha portato all'esasperazione. Altra cosa sarebbe ragionare in maniera concreta e dire: guarda, che non è così che affronti il problema della concorrenza e della competitività del settore, per esempio, agroalimentare italiano. Non lo affronti bloccando i camion alle frontiere. Ma la non risposta porta anche persone, a mio avviso, più moderate a dire: vabbè, a questo punto è meglio bloccare tutto. E questo vale anche per il ragionamento sull'Europa, visto che è chiaro che alcuni partiti punteranno molto su una idea di buttiamo a mare l'Europa, non l'Europa a trazione tedesca, non l'Europa miope e idiota del fiscal compact, ma tutta l'Europa tout court. Guido. E questo è il punto, e questo è il discrimine vero che abbiamo di fronte. Capisco che da questo punto di vista il compito del governo è un compito difficile, improbo, perché stare, diciamo, su questo crinale è molto complesso e molto difficile. Però di questo si tratta, e su questo dobbiamo fare i conti in un paese che l'altro giorno il Censis si è definito che galleggiamo in un liquido amniotico di caos. Questo è, purtroppo, e a questo siamo arrivati anche per le manchevolezze della classe politica e dirigente italiana, che tanti problemi li ha rinviati invece che affrontarli, e quindi adesso siamo arrivati al momento in cui il sistema italiano è nudo di fronte ai suoi problemi. No, anche perché, nel ringraziarti Guido Gentili, poi se no non si è in grado di governare nulla, ma neanche di ragionare sul nulla, perché è chiaro che di fronte all'esasperazione non ragioni più sul nulla, e ti tocca anche sentire cose che non stanno né in cielo né in terra, lo dico tranquillamente, perché la tentazione di pancia di bloccare le importazioni è molto così... solletica molto, ma va fuori da ogni logica di come un paese ricrea la sua competitività e capacità di imporsi sui mercati, non di fare concorrenza laddove il costo del lavoro è più basso. Grazie Guido Gentili, da Sebastiano Berisoni lo auguro una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.